Siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farvi scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una domanda a Parenzo, che è appassionato di cinema. Lei lo ha visto Talk Radio di Oliver Stone? È praticamente la zanzara in formato americano, solo però molto più tragico. E io mi auguro veramente che lei e il suo collega Cruciani non facciate la stessa fine del protagonista, Barry Champlain. A buon intenditor, ovviamente non sto minacciando nessuno, Però che non facciate la stessa fine, perché siete in procinto. Mamma mia, che toccata che mi sono fatto. Beh, mamma mia, che toccata. No, forse non tutti sanno che alla fine muore, diciamo, il... Ma lo sanno. No, chi ascolta, mica tutti sono obbligati a aver visto il grande film Talk mamma Radio. Mamma mia. A pelle sono qui, a pelle. Come ha fatto l'allenatore della Germania, lì, a pelle. No, io tocco il ferro. Che c'è, un po' di ferro. Tocco il ferro. Mamma mia. Allora, io non sono complottista, assolutamente, come sapete. Beh, però intanto diciamo una cosa. Dimmi. Diciamo che a portarci avanti in questi europei è stato un calciatore brasiliano. Beh, un calciatore brasiliano, Lega! Mi senti? Padani! Eder, calciatore brasiliano naturalizzato italiano. Ma cosa c'entra? Ma è brasiliano che gioca nella nazionale. Ha segnato lui. Sturatevi le orecchie. Eder, non Brambilla, non il sur Brambilla. Eder, che non mangia bolenta taragna. Eder, brasiliano. Oh. Parenzo, sei fantastico. Io capisco questa tua polemica, capisco questa polemica. Chiudiamo qui la trasmissione. Un brasiliano, cazzo, ha segnato. Un brasiliano, non Brambi. E il prossimo sarà Mohamed El Albalà. No, c'è anche Sharawi. Eder, questo ha segnato. Silenzio, Padania, via. Chiusa la Padania, Claire. Ma non c'entra un cazzo. Non è un padano, è un brasiliano. Ma non c'entra una mazza. Sturatevi le orecchie. Ma cosa c'entra con l'immigrazione clandestina? Questo è entrato in Italia per lavorare. È venuto in Italia per lavorare, coglione. Non c'è. Cosa c'entra? Una nazionale fatta di nomi come Brambilla, Cruciani, come Mauro da Mantova, come Cristoforo da Novara, Sandro da Roma. Ma cosa tutti c'entra? Minchioni. Eder ha segnato. Eder, un brasiliano che gioca nella nazionale. Andate a farvi fottere. Non c'entra un cazzo con l'immigrazione clandestina, ora, ti ripeto. Torniamo con uno stile più inglese, anglosassone. Allora, e parliamo meno, del fatto meno... che un signore che si chiama Casamonica ieri ha detto che voterà per il signor Giachetti. Da qui naturalmente alcuni dicono, beh, vi votano anche i Casamonica. Il signor Casamonica. Se hanno il diritto di voto, che devono fare? Sì, vabbè, certo, dicono anche che votano per Giachetti. Ascoltano anche la zanzara per quello. Sì, beh, certo, me l'hanno detto. Anzi, sono anche tuoi amici, e stimo molto a Grigiana. La Reggen, siccome è ancora giovane, e allora ci vuole una persona più esperienza, che c'ha esperienza su Roma, e devo fare una preferenza, fare la preferenza per Giachetti. Giachetti, Luciano Casa, credo che sia Luciano, no? Non Lucianone, so. Il buon Lucianone Casamonica. Lucianone, devi chiamarlo, Lucianone, tuo amico. Hai espresso grande simpatia per te, Luciano Casamonica. Vabbè, ma a me sì. mi sta bene tutto, figuriamoci. Che cazzo vuoi fare? Tu, sì, quando l'hai conosciuto, hai detto che simpatia per me è Casamonica. Ma ha detto una volta. Ma che sono Rom, sti Casamonica? Rom? Beh, anche. Anche tutto l'anno. Sono anche Rom. Sinti. Sì, di Casamonica, che voteranno Giachetti. E Giachetti, naturalmente, dice che è una polpetta avvelenata. Ma sì, ma che vuol dire, appunto? Ma sì, ma chi se ne frega. Io non ho nessuna intenzione se li può ottenere quei voti e che penso che sia un'evidente polpetta avvelenata. Io non ho nulla a che fare e non voglio avere nulla a che fare con questa gente. E mi sarebbe piaciuto che altri concorrenti che magari sono andati a prendere i voti a Ostia e che hanno avuto in passato endorsement da parte degli Spada fossero stati così precisi nel prendere distanze come siamo stati noi. Si riferisce Giachetti al fatto che uno del clan Spada, un ragazzo, una volta ha detto che simpatizzava per i 5 Stelle, voleva addirittura candidarsi con i 5 Stelle. Io però, fossi stato Giachetti, sarei stato zitto, perché hai visto mai che possono servire indietro, possono servire pure i voti dei signori Casamonica in questa situazione. Io sarei stato zitto, ma che te frega? Tanto l'imbarazzo è evidente, ma se questi però possono votare, votano. Vabbè, che ho capito, dai. Sai che ho capito che a me di questa elezione non me ne fotte nulla, assolutamente nulla. Sono totalmente disinteressato all'esito di queste elezioni. Proprio non me ne frega niente. Male, molto male. No, ma non sono importanti, ha ragione Feltri, le città importanti. Non cambiano mai alla fine. Come non cambiano mai? Non mi cambiano pare mai. Che Roma sia cambiata in peggio, no? Negli ultimi dieci anni. Ma non per gli amministratori. Ah no, è per chi? Per colpa di chi? Il Padre Eterno, di chi? Allora, senti uno che è di solito un consulente dei 5 Stelle, te lo ricordi il professor Giannulli? Come no? Professor Giannulli, che dice l'omicida della Cox, quella in Inghilterra, è uno spostato, ma gli spostati è facile, senti. Io non dico che sia un episodio di strategia di attenzione, però probabilmente qualcuno soffiava su quell'ambiente già di per sé. Prodisposto, dopodiché il personaggio è quasi certamente uno spostato, però uno spostato è facile poi con un clima di questo tipo spingerlo, lui o un altro, a un gesto estremo. Allora, devo dirti la verità, caro David, io non sono assolutamente un dietrologo. Meno però, male. No, però. Un dietologo? No, dietrologo, figuriamoci, però c'è un elemento, c'è un neonazista americano, aspetta, un neonazista americano che per motivi ancora veramente imprecisati, perché non è che avesse delle relazioni, si uccide proprio una deputata contro la Brexit, contro l'uscita della Gran Bretagna. Non so, certo, si crea un clima favorevole, questo non c'è dubbio. Come ha detto il mio grande amico Marco Venturini, ha detto l'Europa. Come chi cazzo? Marco Venturini? Marco Venturini? Nessuno Marco lo conosce. Come l'altra volta che mi hai presentato uno, ti presento uno, ma a voce mi hai detto mi sembrava Marco George Venturini. Clooney e invece era un'altra persona. Marco Venturini. Ma chi è Marco Venturini? Vabbè, comunque. Vale quanto Sandro da Roma, Cristoforo da Roma. Sicuro, assolutamente. Allora, Marco dovresti conoscerlo. Marco Venturini dice giustamente che l'Europa ringrazierà l'Inghilterra e Joe Cox per il sacrificio che ha fatto, perché si salverà la Brexit grazie purtroppo all'omicidio. Allora morte. Mi dai ragione. Mi dai ragione. No, lui dice, Marco Venturini giustamente diceva Joe Cox, la morte di Joe Cox salverà l'uscita dell'Inghilterra dall'Europa, questo terribile sacrificio di questa persona che non è nulla di perché la gente emozionata andrà a votare per restare in Europa, dice. Hanno sospeso la campagna elettorale da qui al 23, Mi stai dando ragione. No, ma senza il complotto. Nessuno parla del complotto. No, io non parlo. Mi sono posto una domanda. Come ma tutti quanti domanda? Dovrebbero porsi una domanda. Nessuno pone una domanda. Gli spostati esistono in tutti i mondi. Marco Venturini ha detto un'altra cosa. Ma chi è sto Marco Venturini? Ma la vuoi smettere? Ma io non so chi sia. La gente non sa chi è. Ma vuoi smettere di insultare persone, amici, persone per bene? Domani c'è il Gay Pride a Treviso. Gentilini reagisce in questo modo. Gentilini reagisce così. Sentite, Gentilini. Io sarei per interventi drastici, capito? Interventi magari drastici. Manganelli e olio di rigino ancora. No, ma che non dice? È più possibile. È bello il bacio tra due uomini. Ma mi fanno, a me viene il volta stomaco. Il volta stomaco, se quando vedi due uomini che si baciano il volta stomaco. Mi viene il volta stomaco e vedo due donne che si baciano, mi viene la stessa cosa. È una cosa contro natura. Ieri però, caro Parenzo, quando è stata ospite da noi la signora vegana Daniela Martani, ex hostess dell'Italia, ex protagonista del Grande Fratello, eccetera, eccetera, ho capito una cosa. Ho capito alcune cose fondamentali. Sì. Cioè, qual è il problema di una che dice che gli esseri umani sono esattamente uguali agli animali? Qual è il problema di una che dice che gli uomini sono responsabili delle peggiori nefandezze e che in sostanza se ne potrebbe fare a meno? Beh, esattamente questo. Il problema della Martani è che non scopa. Cioè, abbiamo capito tutto ieri, capito? È stato fondamentale questo intervento ieri. Questo collegamento telefonico, magari si sentiva anche poco, però è stato fondamentale capire qual è il vero problema. Io mi sono sempre chiesto come si fa a pensare certe cose, no? Come si fa a essere così integralisti vegani? Ieri ho capito tutto, ho capito tutto. Non scopa da anni e dice che si potrebbe fare a meno degli uomini. Così ho capito come non c'entra. Sì, ma questo non c'entra. Ma sarà un problema, no? Se una dice che si può fare a meno degli uomini, avrai qualche problema mentale o no? Una che dice degli uomini si può fare a meno. Tutti devono fare tutti i giorni. No, per ma forza, tutti dai, i giorni no, ma questa è diversa la cosa. E questa ha deciso, beh, le donne hanno un'altra sessualità. Le donne possono stare senza sesso tutta la vita. Puoi chiederlo anche al nostro amico il professor Bossi, il dottor Bossi. Stasera glielo chiederò, però. Certo, è così. Il problema è: si può stare senza sesso tutta la vita, come dice la signora Martani? Tutta la vita no. Ma uno è disturbato se pensa così, no? Ma io dai. Conosco tante donne che, ad esempio, non avendo più il fidanzato, magari hanno deciso di non, come dire, di abdicare, no, di appendere il chiodo, di appendere, di non volantinarla via, insomma, sì, di appendere al chiodo, ma non volantinarla so, via. Niente adesso, non lo so, adesso come, usa il termine che ma ti pare. Ma chi conosci? Ma chi conosci? Ma gente normale, ma chi conosci tu? Ma chi conosci tu? Senti. Ma lei come farebbe senza un uomo? Scusi, tu, senza un uomo come fai? Scusa, non voglio entrare. Senza gli uomini come mi faccia? Faccio benissimo perché sono single da un sacco di anni, quindi insomma, vabbè, quello sono problemi, sono problemi tuoi, però senza un uomo non potresti nemmeno avere storielle così di come dire, di una botte via, per esempio. Guarda, che le donne riescono a stare senza sesso anche per tutta la vita. Però scusami Daniela, tu dici che le donne possono fare a meno del sesso, ma non è vero, dai, su, ma non dire. Assolutamente vero. Ma non è vero che le donne gli uomini sicuro. Ma non è vero, dai, ragazzi. Ma andiamo al dottor Bossi. Personale, guarda. Cioè da quant'è che non scopi, scusami? Ma non è che ti devo dire da quanto non scopo io, per esperienza personale, per esperienza personale ti posso dire che ci sono stati dei periodi molto lunghi in cui io non ho avuto neanche, guarda, non ho neanche sentito la necessità, quindi vivo benissimo anche senza. Luciani e Parenzo, siete il Franco e Ciccio della radio italiana. Allora, un ex senatore dei 5 Stelle che si chiama Pepe, che adesso ha aderito al gruppo GAL, inutile che vi spiego queste cazzate della politica, il senatore Pepe, comunque senatore della Repubblica, ieri ha fatto un tweet in serata, mentre noi eravamo in onda, sul caso della deputata britannica uccisa, deputata laburista, colpirne uno per educarne 100, che era un vecchio motto, diciamo, motto Mao. Sì, in realtà nemmeno di Mao. Sì, attribuito, scusami, a Mao, ma in realtà era di forse Ho Chi Minh, ma non mi ricordo. Sì, comunque. Vabbè, comunque, colpirne uno per educarne 100. Ora, naturalmente, molti si sono scandalizzati perché sembrava una roba a favore dell'uccisione. In realtà, lui è uno di quelli che dice: hanno colpito quella deputata britannica per educare gli elettori, cioè per emozionare, per colpire gli elettori, per portarli a votare a favore della permanenza dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, una stupidata assoluta. Questo è il punto. Vabbè, ma perché una stupidata? Una teoria come un'altra. Una teoria come un'altra. Detta peraltro da un senatore. No, però, un scusatemi, deputato. Perché è così folle pensare che ci sia qualcuno che voglia condizionare il voto delle persone? Succede sempre, perché in tutte le democrazie succede. Che il comitato del no, il comitato, ma chi l'ha detto Brexit? Il comitato? Chi l'ha detto? O qualcuno ma perché contro l'uscita sì, del sì, ma ci sono magari degli interessi. Quindi anche degli amici di partito di questa deputata o qualcuno. Ma io non lo so. Abbia usato, cioè è una cosa talmente folle che neanche i film americani. Scusa, ma perché tu non non puoi pensare che ci sia qualcuno che vuole spostare i voti. Esiste, pure i complotti, no? Pure ma i complotti no, ma non adesso, ho detto che pure i complotti. Io sono contrario ai complotti. Ho detto che. E allora di che si avvarò? Che è un matto, un neonazista matto, come ce ne sono molti. Il fatto che sia un neonazista americano che colpisce una laburista britannica, fino adesso io non ho letto spiegazioni plausibili. Comunque. Quindi adesso arriverà un mandarà qualunque che ti dirà che quello lì in realtà è pagato senza dai le prove, segreti. Senza le prove, ovviamente non vale nulla. Donato, Donato Varese, vai, Donato. Ah, sei tu, Donato. Ecco. Donato. Dimmi, Donato, dimmi. Ecco, perfetto. Sì, allora, eccolo. Io sono molto, molto calmo. Molto calmo. Voglio essere, vorrei essere molto calmo. Ma sei arrabbiato, sei incazzato per qualcosa? Che è successo? Ma ti ho detto già, io avrei bisogno di molto tempo per dire. Ma vai, tu comincia, poi vediamo. No, vai, quello che voglio dire, allora quel porco maledetto islamico, quel porco maledetto terrorista islamico, chi? Qualcuno vorrebbe far sembrare quella mattanza come se fosse quella sui gay, sì, quella sui gay. Sì, come se fosse stato uno che è un omofobo. No, non è omofobo. Lui ha pensato di uccidere delle persone che non erano islamici, persone che non erano della sua parrocchia, e ne ha fatti fuori qualcuno che probabilmente dentro lì aveva qualcuno che gli stava più su cazzo, e li ha distrutti, li ha fatti saltare all'aria. Sì. Quindi vorrei vedere adesso dove si trova Vendola, quel porco di Vendola, dove si trova? In America ancora. Io vorrei che il porco di Vendola, aspetta, non so, perché lui ha tanti canali per riuscire a dire le sue cazzate, le sue stronzate, no? Sì. Basta che telefona a qualsiasi giornale, lo fanno parlare, hanno fatto l'intervista a Repubblica. Vendola, sì, che ha demonizzato gente anche come me, qualora avessi chiamato anche Ricchioni un uomo che ha delle tendenze diverse da un etero, ci ha chiamati veramente medievali. Io vorrei sapere questo grandissimo ladro di bambini, che io definirei un grandissimo figlio di puttana, che all'Italia non è servita un cazzo. Se c'è un essere che all'Italia non è servito un cazzo, ecco, Vendola è tra i primi 40. Vabbè, però scusami adesso, perché ti dici figlio di puttana? Questo è un insulto pesante. Figlio di puttana non inteso perché la mamma è una puttana, è implicito che io quando è incazzato, quando un bastardone è un bastardone, che ha fatto? Allora, cosa diceva Vendola tempo fa? Ve lo ricordate, no? Che diceva? Un personaggio schifoso che è questo qui, questo Donato. No, io non sono un personaggio scritto. Quando diciamo abbracciare quelli che vogliono pregare e dire ai nostri fratelli musulmani che debbano essere tutti in Italia. Che personaggio. Lui ha fatto entrare i musulmani, però il miserabile si è andato in Canada. No, adesso facciamo entrare l'Islam in casa e ci andiamo nel paese più bello. Cosa più, c'entra il più, Canada più con l'Islam? È meraviglioso. Sei andato in Canada, cioè, ti rendi conto questo che elemento che è? C'entra? Sei rubato un bambino, sei andato in Canada. Se n'è andato in pensione 4 anni prima, cioè, questo è un porco maledetto. Comunque, però scusami Donato, ma tu che lo faresti tornare in Italia, rientrare in Italia oppure no? Perché io qua c'è in realtà gli farei tirare fuori una buona parte dei soldi, perché lui quei soldi li ha presi indebitamente. È un ladro. Ma voi avete mai sentito Vendola quando parla? Ma o non l'avete mai sentito? Avete sentito le cazzate che diceva su Berlusconi? Basta, soltanto quando Berlusconi dice di dire preferisco più nelle belle fighe che essere gay. Ma questa è una cosa normale, tutti gli altri dicono preferisco più una figa che essere gay, e lui lo condannò. Che cazzo di chiuso, una specie di prosopopea dicendo che miserabile, un razzista. Io non voglio parlare nemmeno di questo. Comunque sono anche incazzato. Perché sei incazzato? Spiegami. Io sono incazzato su tutto, Giuseppe. Sì, ma che cosa? Ma il Papa, poi col Papa com'è finita col Papa? Il Papa. Il Papa deve fare i conti con me. Sì. Il Papa è venuto che si nasconde sotto una belandrana. Ma questo non gli è bastato, la querela di Chicco Testa, questo che non gli è bastata ancora. Un uomo di merda, abbia almeno un po' di coraggio, non come ce l'ho io. Non ti è bastata la querela. Non sono una merda come te. Non sono una merda. Io ti faccio vedere chi è parente. Così come parli te. Aspetta. Buonasera, vivo io bene anch'io a tutte e due, nonostante quello che sto per dire. Allora, io ascolto da tanti anni, penso sempre una cosa: alla Zanzara ci vorrebbe una figa figlia di mignotta come a te, Cusani. Oh, Oh, a proposito di femminicidio, Parenzo, però ci sono anche un sacco di notizie. Il marito si rifiuta di fare sesso, la moglie lo uccide a bastonate. Ci sono anche queste notizie qui, A Castelfranco Veneto è stato scoperto un intero campo nomadi, alimentato con la corrente rubata dal cantiere della Pedemontana. E chi governa Castelfranco Veneto? No, ma non lo so, ma non Quale so chi governa. Non lo so, te un lo intero chiedo, lo campo so. Nomadi alimentato con l'energia rubata dal cantiere della Pedemontana. Adesso vado a vedere il Castelfranco Veneto, vediamo subito chi governa. Vediamo. Castel Franco e anche Veneto. Vai. Castelfranco Veneto, vediamo subito. Provincia di Padova, ovviamente. Comune italiano, 33.000 allora, abitanti. Tu sai che la Boschi ha cominciato a fare delle telefonate ai cittadini per Giachetti, no? Sì, è normale, propaganda elettorale che fa... Beh, è normale. Senti Gasparrone. No, ma certo, è normalissimo, assolutamente, è normale. Non può fare telefonate. Sì, assolutamente, senti Gasparri. È discutibile, per carità, però. Senti Gasparri che ha detto. Credo che per la Boschi un futuro in un call center che non glielo leva nessuno. No, ma è un avvocato la Boschi, Gasparri. E beh, c'è anche da difendere il babbo che è accusato delle truffe alla Banca Etruria, quindi può fare di giorno l'avvocato del babbo che sta sotto indagine per le truffe di Banca Etruria e di sera la centrale inizia al consente. Avanti, concludiamo con Donato, Donato, che c'è? Avanti, Donato, che c'è ancora? Vai. Allora, presidente, la prima cosa che mi viene in mente è quel sindaco afghano che i londinesi hanno commesso la cosa più idiota che possono avrebbero mai potuto commettere. Come si chiamava? Ma chi è che fa sto fischio? Merda. No, perché se quello che sto richiamando il cane, Donato. Mentre io parlo quei 4-5 minuti alla settimana o al mese, questo qua deve parlare ore e ore. Vuol dire che in questa Italia non c'è democrazia. Vuol dire che dista la parola è vietato. Sta zitto completamente. Le stavo richiamando il cane Donato. Donato? Quindi dai. Sa di Ken, no? Lui voleva soltanto vietare la pubblicità di una ragazza che stesse lì, si mezza nuda. Altro che l'integratore, semmai quel sindaco, non voglio offendere, quel sindaco semmai andasse a condannare l'estremista, come si chiama, quell'altro pezzente lì che ha fatto la mattanza Orlando, perché questi sindaci, questi islamici che sono in Europa, non iniziativa, non vanno, non scendono mai in piazza a condannare i miei fratelli che in nome di un Dio ammazzano i cristiani. Ma cosa vuoi dire? Che abbiamo in Europa, io adesso vengo da fuori, dove abito? Io, il test, è diventato un po' una Bangladesh, praticamente un cazzo, dietro una macchina esce fuori la palandrana, vai in un mercato, ci sono altri 5 tutti vestiti in connect con quelle palandrane che cadono per terra. Ma dove? Non si capisce un cazzo. No, ecco. Io voglio vivere il paese cristiano. Questo paese è cristiano. Deve rimanere tale. Voi cristiani come lui. Ribellatevi. Non è una lotta contro l'Islam. La nostra storia ci insegna che gli islami cristiani si sono sempre fatti a pezzi. Ma scusami, ma dove stanno tutte queste... Perché questo pusillane mi cade a fianco, non so che cazzo deve difendere più questo spugo, questo catarro, che cazzo deve ancora più di chi lo mantiene lì? Allora, quali sono i suoi figli? Sembra gli sforzi che uno fa quando va in gabinetto. Sono gli sforzi. Mio figlio piccolo, quando va in gabinetto, fa come Donato. Per cui? Uguale. Tu mandi mio figlio piccolo quando va in bagno a fare le sue cose? Come te lo fai? Guarda, qui c'è mio figlio, adesso in casa tua, no? Comincia a fare. Entrasse un clandestino. Così fa. Se in casa sua entrasse un clandestino, no? E gli violentasse la moglie. Ecco l'esempio che arriva. Ecco l'esempio. Io non potrei mai violentare la sua moglie per un milione di motivi. Purtroppo ci sono clandestini che vengono in questo paese e violentano con nonchalance. Le persone, le violenti con le ammazzano pure. Allora Renzi, ripeto ancora, non mi interessa questa radio, Renzi, quale sia, Renzi deve essere fermato. Anche quel porco di D'Alema! Continua a dire che, ma che c'entra D'Alema? Sono una risorsa. Sono una risorsa perché i contributi che loro versano all'INPS, se loro dovessero lasciare l'Italia, l'INPS cadrebbe su se stessa. Sì. L'uomo di merda che se ne andassero tutti fuori dai coglioni, li potremmo sostituire con anche la Boldrini. Questo questa gente deve essere quella di me, deve essere uccisa. No, uccisa, dai, uccisa, dai. Contro questi zimbelli, D'Alema, chi è D'Alema? Mi porti qui, D'Alema, che cazzo ha fatto in Italia? Quella brutta bestia, quell'ironico, che cazzo ha fatto? L'Europa ha bisogno di 30, 40, 50 milioni di immigrati, che peraltro poi sono tutti sunniti. Non è che sono sudanesi. Sunniti, sai anche la differenza, capite? È il peggior popolo ha sentito che la storia ci ha insegnato che noi ci siamo, va a vedere le crociate, va a vedere le guardie. Senti, ma anche la Boldrini è completamente fatta a pezzettini. Sì, anche la Boldrini recentemente ha detto che il meticciato è un valore, eh. La Boldrini, la poverina, la Boldrini è stata messa lì in Parlamento col 2,1%, ma ti rendi conto? L'ultimo politico della Lega era più degno di andare lì, anche se avesse avuto meno voti. La Boldrini, allora, la Boldrini sta a Parlamento come uno spazzino, come uno spazzino potrebbe stare in una sala operatoria. Come la Donato, Boldrini, come Donato sta le persone sane di mente. La Boldrini, come Donato sta le persone sane di mente. D'accordo? Ha detto? Bisogna eliminare queste persone, non letteralmente. D'accordo? Eliminarle, tirarle fuori e mandarle nei paesi arabi. Perché queste persone ci distruggono la nostra civiltà. Va bene, Donato. Abbiamo sono capito. Persone che non servono un cazzo, lo dico. Ve lo dico. Prendi questo zimbello. Mi raccomando col Papa, mi raccomando col Papa. Come va col Papa? Ancora no. So che tu mi vuoi. No, mi raccomando, con i farmaci. Non col Papa, con i farmaci. Prendili regolarmente, perché altrimenti guarda che succede. Prima passato, quando si presenta in quella grandissima basilica, no, dovrebbe dire sì. In quell'enclave. Cristiani! Che dovrebbe dire? Il vostro rappresentante deve parlare di cristiani! Deve per scrivere fare il vostro atto del Papa. Pensa a te. Pensa. Il caldo peggiora tutte le situazioni. Ciao. Il caldo peggiora tutte le situazioni. Non c'è dubbio. Allora, senza fare i nomi, vi devo leggere alcune cose. Non faccio i nomi, c'è una signora che scrive, Roberta, Natale Roberta, no? Qui devo fare il nome, Roberta Campanelli, mm-hmm. È una utente di Facebook, Twitter, non so che cosa è Twitter, credo. Non faccio il nome del soggetto, divino. A parte i contenuti super condivisi, io sono davvero ammirata dalla sua scrittura. Penna super felice che regala al cuore di chi legge momenti di assoluta bellezza, secondi solo ad una bella sinfonia del Mozart maturo. Grazie davvero di cuore. Si rivolge così a uno scrittore, a un giornalista, che non nomino. La risposta di questo signore, bravissima, la forza dei miei pezzi sta anzitutto nella forma, nel ritmo, nella musicalità della Mozart, scrittura. Mozart, sì, lei è una ottima lettrice, grazie. Mozart. Cioè, una ti scrive una cosa del genere, dei complimenti esagerati, naturalmente, Mozart, eccetera. Tu invece di stare zitto rispondi in questo modo, bravissima, la forza dei miei pezzi, non pronunciare il nome, sta anzitutto nella forma, nel ritmo, nella musicalità della scrittura. Lei è un'ottima attrice, grazie. Io non dico nulla, non dico niente. Non ho pronunciato nomi, non dico nulla. Ma uno che risponde così, amici miei. Non ho pronunciato nomi perché non ho. Ma non me ne frega un cazzo, io non voglio pronunciare quel nome. Non me ne frega nulla. E perché? Perché non voglio pronunciare quel nome, perché non mi interessa, capito? Non mi interessa. Mi segnalano queste cose e volevo semplicemente offrirle. Cioè, offrirle per dimostrare, come dire, per misurare la capacità cognitiva. Io soffro di meteorismo e quando sono in macchina e sgancio mi godo il profumino. Ragazzi, chi non lo fa? Chi non lo fa, caro Davide? Allora, riapriamo il capitolo del chi non lo fa. No, ma chi non lo fa? Chi non lo fa? Questo ascoltatore ha ragione. Cioè, tu soffri un po' di meteorismo o no? No, io ne ho sofferto in una fase, ho preso questo consiglio. Interessante questa cosa qua. Sì, hai sofferto di meteorismo? Mi permetto di a sì, che età? Scusa, scorreggiavi come un matto praticamente. Ecco, detto così può sembrare greve nella... Ma questo è interessante però, perché uno dà sempre l'idea di Parenzo di una persona tutta precisina, invece scorreggiavi come un matto. In passato ho sofferto di meteorismo. E allora ho preso il carbone. Cioè molto semplice. Vabbè, ma sì, ma quella è una cosa classica, sì. Cioè, ma per quanto tempo hai sofferto di meteorismo? Non ho capito. Ma una poche settimane, era un periodo che avevo magari più tensione, quindi lo stomaco era più... E hai fatto qualche bella figura di merda scorreggiando in pubblico, in macchina, in autobus? Guarda, caro, no. Generalmente no, perché quando mi capitava magari anche un colloquio, mi ricordo un colloquio a Matrix, ero forse di lavoro lì, forse sì. Un colloquio a Matrix, avevo mal di stomaco, avevo appunto, sentivo che stava per arrivare. Ma quello non è meteorismo. Allora, che c'entra? È un'altra cosa. In che senso? Ma è un'altra cosa, non è meteorismo. Meteorismo è uno non se ne rende conto, comincia a scorreggiare come un matto. Non è meteorismo. Non so in che mondo vivi tu. Ah, no, questo... il meteorismo è un'altra cosa. Ah, stai... Allora no. Non hai sofferto di meteorismo. In questo modo così grave? No. Allora, ti voglio far ascoltare una giornalista che conosci molto bene, la signora Maria Teresa Meli, che da molti giudicata del Corriere della Sera, da molti giudicata vicina al Partito Democratico. No, ma che vicino. Come no? In particolare a Renzi. Vabbè, comunque, molto vicina all'idea di Renzi. Ragazzi, diciamo le sue idee. Senti che dice su D'Alema. Senti. Sentiamo. D'Alema ci va ai giardinetti ogni giorno, ogni mattina col cane, senza l'apposito sacchettino per raccogliere i bisogni del cane. Ogni mattina abita a 100 metri da casa mia, cioè ogni mattina ci incontriamo. No, lui è venuto a vivere nel mio quartiere quando ha avuto lo scandalo. E tu non glielo dici, Maria Teresa, portati la paletta. Poi, nei giorni scorsi, hai detto una cosa sui romani, sull'inciviltà dei romani e sulla civiltà dei milanesi. Senti. Milano è una città che sa gestire, perché è una città è governata. Mi duole dirlo, non solo è ben governata, ma è fatta da gente civile. E purtroppo i romani non sono tutti civili. Cioè, i romani incivili, i milanesi no. Cioè, gran parte dei romani incivili, mentre i milanesi... Dunque, è più facile amministrare Milano di Roma. Giuliano da Roma, vai. Questo è vero. Giuliano, vai. Dare un contributo per quanto riguarda l'astinenza dal sesso per quanto riguarda le donne. Sì. Un fatto storico. Alla fine, alla metà dell'Ottocento, c'era il problema dell'isterismo da parte delle donne. È un medico inglese. Dell'isterismo? Dell'isterismo. C'è anche un film su questo. Sì. E il fatto che le puzze non godono. Allora, nello suo studio attrezzò in modo tale, quindi, che le donne andassero lì rimanendo vestite e lui si prodigava masturbandole, facendole godere. E ovviamente arrivò la fila. Un medico, diciamo, più giovane di questo, alla fine, masturbando oggi, masturbando domani, sarà anche un po' scocciato. All'inizio poteva far piacere, dopo diventava anche un problema di dislocamento del polso. Così, vedendo un ventilatore che girava, gli venne in mente di creare il famoso vibratore. Da quel momento uscirono i vibratori in fabbrica e i giornali inglesi e anche americani pubblicizzarono appunto questo vibratore chiamato come massaggiatore privato. Chiedo scusa, perché lei il venerdì alla fine della settimana? No, perché si è parlato della questione delle donne che possono stare senza sesso. Ho capito. Dalla signora Martani ieri sera. E quindi lei si è sentito quasi in dovere di fare questo excursus storico sul vibratore. Ho capito, d'accordo. No, ma è interessante questa cosa qua. Carità, scusa, benissimo, è molto interessante così. Questa cosa. Basta andare su Google carità, e vedere isteria e si vede benissimo. Isteria, vibratore, c'è tutto quanto. Comunque dico, con tutte le notizie che ci sono oggi, ma se lui anche è interessato a quella roba lì, no, non c'è nessuna notizia importante oggi. La corsa per il sindaco di Roma, ma non c'è nessuna notizia. Non c'è la nessuna vicenda notizia della Brexit, le banche, le borse. Vabbè, Simone da Milano, vai. Lui ritiene importante parlarci di un vibratore. Assolutamente. Va bene. Simone da Milano, vai. D'accordo. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Parenzo. Io buonasera. Sono San Giovanni. Niente, innanzitutto buona Padania. No, senti Simone, non ci rompere i coglioni. Buona, vai Padania, al sodo, forza, no, dai, forza, non ci rompere le balle, dai, con queste cazzate, dai. Io chiamavo. Cioè, buona Padania a tutti, lo può dire Borghezio, non Simone da Milano, capito? Borghezio chiama e può dire buona Padania a tutti. Se lo dici tu, ti mando semplicemente a fare in culo, vai, forza. E io mando anche voi a fare in culo. Ma tu puoi fare quello che vuoi, infatti, siamo qui per essere anche mandati a fanculo, dai. Perfetto. Ma sì, perfetto, cosa perfetto? Ci hai fatto perdere un minuto già. Ho chiamato perché mi aveva incuriosito la tua teoria del complotto, no? Non c'è nessuna teoria. Io ho detto che sono contro le teorie dei complotti in generale. Contro la teoria dei complotti, però diciamo che questo fatto fa un po' pensare, no? E in effetti fa pensare, come tutte le volte sentiamo, che c'è una politica che va contro, diciamo, l'Europa di sinistra, no? Così come è successo in Austria. Che c'entra l'Europa di sinistra? Fa. E beh, si sa che insomma i governi dell'Europa sono... Sì, però Simone, andiamo al sodo. Cosa vuoi dire? Perché non abbiamo tempo da perdere noi con queste cose. Il sodo qual è? Non si può. Non c'è sodo. Distruggere tutte le volte che c'è una corrente che va contro l'Europa. Sì, ma cosa c'entra con l'assassinio di questa deputata? Vai al sodo anche qui. Perché certo. Allora, innanzitutto è stato definito come un neonazista, eccetera, mentre probabilmente è solamente un povero squilibrato. Dunque? È stato definito. Dunque? Io non lo definirei un omicidio politico. Era uno squilibrato che, poverino. No, Simone. Dunque, arriviamo al sodo. Che cosa vuoi dire? Niente. Semplicemente non si è capito ancora. Tutte le volte che c'è una destra che si va avanti, eccetera, o c'è un paese che mette in dubbio alcune leggi dell'Europa o che non vuole fare. Non vuoi dire un cazzo, Francesco da Catania, vai. Non hai detto un cazzo, dai, via. Francesco Catania, vai. Parenzo? Sì. Eccoci, caro Francesco. Che fai quest'estate? Faccio una trasmissione in onda sulla 7, caro. Tutte no, le sere. Niente vacanza. Farò soltanto. Vieni in Sicilia, ti aspettiamo in 7 giorni. Ti aspettiamo in Sicilia, ti facciamo anche scegliere il posto se vuoi stare o sul motorino o sulla macchina. Sì, per fare cosa? Per alla caccia ai conigli. Parenzo, ti vogliamo con noi. No, non faccio caccia ai conigli, non è una cosa che mi diverte. Perché tu pratichi la caccia al coniglio, Francesco? Assolutamente, io sono un compagno di scorribande, Carmine, quello che battiamo l'altro giorno. Cioè, no, il compagno di scorribande di Carmine, cioè come organizzate queste cacce al coniglio? Spiegami. No, allora tu consideri, il gruppo si raduna, c'è chi viene in motorino, c'è chi viene in macchina. Sì. Delle volte io scelgo il motorino, perché con motorino tu hai la possibilità di essere attivo, perché c'è chi guida, tu ti siedi dietro, poi devi scendere e colpire la presa. È illegale, no, totalmente illegale. In quanti siete nella stessa macchina, scusa? Totalmente illegale. No, in macchina 5, 6, no? Brutale e illegale, ti dico di più, brutale. Poi le nonne che fa? Le lasci a bocca asciutta? Le nonne aspettano questa cosa la sera. E poi tu, quando torni brutale a casa, e mare, illegale e inumano anche. Ma non ho capito, voi come funziona esattamente? Spiegami bene, cioè voi siete in gruppo, tu continui veramente, qua sull'Etna ce n'è un sacco di conigli che girano per le campagne tranquilli, quindi tu poi ti lanci in queste campagne, su queste strade lunghissime, bellissime, e poi con i fari loro già appena cominciano a venire fuori si bloccano in mezzo alla strada. Esattamente, si bloccano, a quel punto se tu sei sul motorino scendi e lo insegui, anche lo colpisci con la pedata. E qui ad esempio sono con mio cugino, lui è un altro grande maestro di questa tecnica. Passami tuo cugino un attimo, passami. Sì, te lo passo. Come si chiama? Franco e Ciccio. Franco, infatti l'altro carissimo Franco, grandissimo, l'altro genio. Ecco, praticamente andate a caccia di conigli. Quante volte andate a caccia di conigli? È una tradizione, della famiglia, hanno cominciato i nonni. Aspetta, parla meglio, qua avvicinati a questo cazzo di microfono del telefono. Sì. E quella col motorino era la mia grandissima specialità. Diciamo, cavallo di battaglia. Cioè, come fai col motorino? Anche lì, fari, eccetera. Fari, eccetera, a quel punto scendi. Parla più vicino. O addirittura ti sbilanci e colpisci col piede la preda. Sì, ma sei con l'auricolare? Con che sei? No, tutto a posto, col cellulare. No? Allora, dunque, praticamente luce col fari col motorino, poi? Fari col motorino, dopodiché, ecco. Una volta che la preda è immobilizzata al centro della strada, cosa fai? Ti sbilanci sulla destra, perché siamo tutti destri, e colpisci col piede. A volte ti puoi anche sbilanciare, puoi anche cadere, ma... Ma lo manchi qualche volta, lo manchi o no? Certo, a volte lo manchi. Perché il coniglio scappa, riesce a scappare. Viene dai compagni, certo, perché è agonistica la cosa, che ne prende di più. E quanti ne ammazzate a sera? Totalmente illegale. Ma non è illegale per niente. Spero che vi arrestino, perché è un reato quello che voi commettete. Ma non credo che sia reato. Assolutamente sì, inumano, ed è un reato. La nonna vi dovrebbe dare tante sberle sulla testa, la nonna. Ma non ho capito, quanti siete a fare sta gara? Quanti siete? Sì, siamo una decina. Ecco, adesso ti passerà un altro idiota di questi, guarda. Ma chi li vuoi passare? Idiota. No, ma non esiste. No, ti ripasso il cugino, per dirti l'atto finale di questo coniglio. Il cugino. Dimmi, Francesco. Parenzo, ti facciamo partecipare anche alla scannata finale. Com'è la scannata finale? Perché come tu ben sai, il coniglio deve essere, preparato subito. Sì. Deve essere sguaiato, no? Non condivido nulla di quello che dite, fate, nulla. Non lo puoi mangiare. mangiare, no? E dunque che succede? È capitato che amici miei lo facessero addirittura in piazza, proprio appena tornati alla Scoribanda lì. Sì. Che proprio per evitare di perderlo. Ho capito. Vi dovrebbero segnalare alla forestale e arrestarvi. Ma quando mai? Rosanna, certamente. Ravenna, vai, Rosanna, certo. Rosanna. Spero che lo faccia qualcuno. Rosanna. Adesso sentivo questa cosa dei conigli che mi ha abbastanza così... fatto i ribrivi. Ti credo. Vabbè. Mi collegavo. Vabbè, per lui è tutto normale. Dimmi, Rosanna, dimmi. Praticamente rinuncia alle gioie del corpo, dell'amore, eccetera, eccetera, eccetera. Uno è un peccato perché, voglio dire, a noi è stato donato il corpo per provare poi? Dei piaceri, no? Certo, e poi fa bene alla pelle, fa bene all'unga. Beh, la fa vita. Bene a tutto. Lei quanti anni ha, Rosanna? Io ne ho 56, però è in piena attività sessuale. È in piena attività sessuale ancora o no? Prego? È in piena attività sessuale ancora o no? Ma certo, certo. E voglio arrivare fino a 80 anni, fino a 90 anni. Vabbè, la signora Allegra. Insomma. Cioè, una bella vita serena. Aspetti là, Rosanna, aspetti lì, che io voglio chiamare adesso, fra poco. La voce è simile a Marina Ripa di Meano. Sì, è vero. Voglio chiamare un deputato regionale della Lega. Prima abbiamo 30 secondi. Perché quello deputato? Che ha detto oggi che bisogna arrestare Vendola. Che bisogna arrestare Vendola prima che entri in Italia. Aspetta. Della Lega. Allora... nel frattempo squilla e non rispondere. C'è questo consigliere regionale, in realtà non è della Lega ma della lista Zaia, che si chiama Val De Gamberi, il quale ha detto che Vendola deve essere arrestato quando entra in Italia, se mai verrà in Italia deve essere arrestato. Facciamogli una telefonatina, va, prima squillava e non rispondeva, vediamo. Sì. Val De Gamberi? Sì. Amico mio, come stai? Sono Cruciani. Senti, ma davvero pensi che Vendola debba essere arrestata adesso, seriamente? Ma io ho dato incarico un legale per valutare se ci sono gli estremi dal punto di vista legale e c'è qualche violazione di legge, perché il buon senso porterebbe a dire di sì. Per cui, secondo te, lui quando entra in Italia andrebbe arrestato, cioè una volta che mette piede sul suolo italiano ci dovrebbero essere i carabinieri, giusto? Se siamo un paese serio, sì. Se siamo un paese serio, sì. Scusa, e il bambino che fine fa a quel punto? Ma scusa, il bambino di chi è intanto? Bambino? Non è certo suo. È del marito di Vendola, del compagno di Vendola. Ma siamo sicuri, il marito, c'è un ovulo di una, gestato da un'altra. È una compravendita, quello lì secondo me andrebbe adottato da una famiglia con padre e madre e andrebbe tolto da quei signori lì. Cioè tolto da quei signori e dato a una famiglia. È dato in adozione a una famiglia con papà e una mamma. Sì, però scusami Stefano, adesso abbi pazienza. Una cosa è essere contro l'utero in affitto, una cosa è dire se uno fa l'utero in affitto in Canada dove è permesso e poi torna in Italia, al massimo può dire lui fino a prova contraria lui è cittadino italiano. Politicamente è un raggiro della legge, uno che è cittadino italiano va in Canada, ora se è un reato che è previsto un reato in Italia, non capisco perché uno va in Canada a commetterlo, poi gli sono ritornato per aggirare l'ostacolo. Come lo consideri Vendola dal punto di vista... Ma io considero una cosa ignobile, perché si nega il diritto naturale di un bambino ad avere un papà e una mamma. E lì c'è una compravendita a pagamento, perché non c'è nessun atto di amore, di affetto, di generosità. Si pagano le persone per acquisire al supermercato. Ma non c'è amore? Non c'è amore nei confronti amore, di questo bambino? Ma lo chiama amore uno che acquista un bambino? Lo chiama amore? È ma... mercato? È marketing? Senti una cosa, scusa, ma Vendola... Scusa, è mercificazione della vita umana, altro che amore. E Vendola come lo consideri come persona? Ma io non lo considero neanche una persona di bassissimo profilo, che egoista, il quale non ha rispetto. Lui può comportarsi come vuole col suo compagno, può fare tutto quello che vuole, ma non tirare in ballo la vita di altre persone. Questo signore che sta parlando, il consigliere regionale della Lega, è lo stesso che qualche tempo fa ha detto femminicidio sono più le donne che uccidono gli uomini, è giusto per inquadrare il personaggio. No, è stato detto una cosa diversa, travisata dai media sempre. Non ho detto sono più lei... le donne che uccidono gli uomini, ha detto lei. Maleducato, non si tratta di pensiero degli altri. Ma è un virgolettato, maleducato un cazzo, no, perché l'ho letto dal Corriere della Sera di Verona. Esistono gli omicidi e se guardiamo statisticamente sono più gli uomini ammazzati che non le donne ammazzate. Appunto, quello che ho detto io, quindi. Non vuol dire quello che è stato scritto sul giornale. Beh, uguale, hai detto più uomini. È diverso. Non stiamo a fare dell'orologia. Senti, Gamberi, Val di Cozze. Gamberi sarà lei, si permette di rispettare persone, perché Val de Gambe, come lei non hanno nemmeno rispetto degli altri. Val de Gambe, Val de Cozze, Val de Cozze, scusi un attimo. Val de Cozze, un attimo. Mamma. Cavolo sarà lei. Va bene, Val Branzino allora. Val Branzino, Val de Gamberi. Vabbè, parla normalmente, allora, dai. Torniamo un attimo alla vicenda Vendola. Lei beve in genere, no? Giusto, cioè non è astemio. Io bevo come tutti i veneti, visto che avete detto che sono ubriaconi e quindi No, io non sono ubriaconi. Allora le chiedo, quando lei ha detto che bisogna arrestare Vendola, aveva appena bevuto 52 spritz o aveva fatto uso solo di acqua naturale? Ma guardi, io ho letto, cioè lei scherza o parla sul serio? Avevo letto una legge dello Stato italiano che voglio che sia applicata. E quindi se erano ubriaconi coloro che hanno fatto la legge, chieda chi ha fatto la legge. Porta pazienza, Val de Gamberi. Porta pazienza, Val de Cozze. Scusi un secondo, porti dai, pazienza. La sua testa è una cozza, sono buonissime le cozze. Che male, cozze o gamberi? Vabbè, uguale. Si chiama Val de Gamberi. La sua testa no, però. Però voglio capire questo. Lei che chiede l'arresto di Vendola e chiede che questo bambino, nato comunque dall'amore di queste persone, venga sottratto. Due fondi schiena non generano un bambino. Eccolo qua, lo sapevo che sarebbe finito. Due fondi schiena non generano un bambino, ma quale amore fa? L'hanno pagato delle donne. Ma quali due fondi schiena? Ma come parla? Ma cosa abbaia? Cosa abbaia? Cosa abbaia, Gamberi? Ma Gamberi, ma di che cosa parla Gamberi? Io ho tre figli e ho rispetto dei bambini. I bambini hanno diritto. Lui ha detto due mamma e un papà. Lui, ma come si permette? Non sa neanche cosa vuol dire. Io ho tre figli. Io ho tre figli, Gamberetti. Ho tre figli. Ho tre figli, Branzino. Ho tre figli. Tre figli. Allora saprà che un bambino ha bisogno della mamma e del papà. Lei ha detto una cosa di una volgarità inaudita. Ha detto, da due culi non nasce un figlio. È una porcheria. È una realtà. È un dato scientifico. È una porcheria. Ma perché una porcheria? Perché è volgare. Lei, Branzino, ha detto delle porcherie. Lei ha detto una volgarità. Sta insultando Tobia, il piccolo Tobia. Ma il bambino non vuole farsi difendere dai gamberi e dai branzini. Il bambino non si fa difendere né dai gamberi e dai branzini. Non è lei che deve decidere sulla sorte di un bambino. Su questo Parenzo la pensa come te. Io non posso. Se pensa come me, perché è il contrario, quel che dico io. No, Parenzo la pensa come te. Anche tu sei contro l'alluderio affitto. A differenza dei gamberetti che stiamo sentendo, non mi piacciono, non li mangio neanche, mangio solo branzini e rombi. Non mi piacciono i gamberetti, mi fanno schifo. Come le cozze. E allora, a differenza del signor Val de Gamberetti, io non avrei mai detto una stupidaggine come la richiesta dell'arresto e delle volgarità. Non tutelare i diritti di un bambino è una stupidaggine. Ma che cosa sta dicendo? Li tutela lei i diritti. Negare il diritto a avere l'abbraccio di una mamma è una stupidaggine. L'abbraccio di Vendola che quello della Val dei Gamberetti. Sì, sicuramente. Stefano, scusa un attimo. Ma l'abbraccio col bambino, quello della foto che hai visto, no? Vendola che abbraccia quel bambino, come ti è sembrato? Una cosa orribile? Io credo che vuole sentire il cuore di sua madre che l'ha gestato per tanti mesi il bambino e non quello di un altro signore estraneo. È un trauma che ha avuto quel bambino lì. Beh, un trauma, magari poi crescerà normale, non avrà nessun trauma, come facciamo a saperlo? Me lo auguro, ma io guardi, sul fatto della normalità non credo che siamo noi a giudicare. La natura ha un suo corso e noi dobbiamo rispettare la natura. Rispettiamo pure lei, pensi un po', se non rispettiamo la natura. Io sopporto lei che potrei guardare che Pensi a me che devo rispettare uno pensi come lei. Pensi il più grande scherzo della natura, Val de Gamberi. Rispettiamo pure il grande scherzo della natura di Val de Gamberi. Guardi, ogni volta i lettori mi votano, lei non ha mai votato, quindi mi preoccupa chi scrive sulla scheda Val de Gamberetti, quello mi preoccupa molto, però vabbè, ormai il paese è finito. Pure che a me non interessa. Ciao. Sì, perché se uno fa il sindaco a Londra automaticamente è un genio se nasce in un buco di culo di Città del Nord, automaticamente un coglione Parenzo, ma... Ma vai a cagare, Parenzo. Allora, eravamo con Rosanna, ma, Rosanna da Ravenna. Ma chi ha mai detto una corbelleria simile? Beh sì, hai detto prima, ieri, altro che un sindaco del buco del culo. No, quella parola non l'ho mai usata. Del buco non l'ho mai detto una parola simile. Sì, come no, ma ti assicuro. Del buco del culo non l'ho mai detto. Sì, sì, assolutamente. Non ho detto quello. Te lo faccio risentire, non c'è nessun problema. Tira fuori le carte, vediamo, tira fuori le carte. Vabbè, allora? Ma ho detto semplicemente che il sindaco di Londra, londinese, pakistano, che va a governare una città importante, vale megalopoli. Di più di che cosa? Vale di più di che? È culturalmente più aperto. Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero, ma chi te l'ha detto? Non è detto, magari è un coglione. Gli inglesi che lo hanno votato sono culturalmente più aperti. Ma di chi? Hanno ma chi te l'ha detto? Un uomo come questo qui. E rispetto a chi? Rispetto a quelli che hanno votato Bitonci, per esempio. Ma ecco, lo dici tu, Bitonci, ma potremmo citarne anche altri. Ma dico, ma veramente è una cosa di razzismo questa roba qua? Che si fanno rappresentare da un personaggio come Bitonci. Ma sei veramente un coglione, cioè, ti assicuro che è veramente una coglionata quella che stai dicendo. Londra, che è una megalopoli, una città ricca di etnie, dove c'è la City, quindi cosa il potere c'entra? Vero anche ma cosa c'entra? Ma come fai a giudicare gli elettori in questo modo? I londinesi scelgono di farsi rappresentare da una figura come il sindaco e allora, di Londra. Ma quello chi se ne frega? D'accordo. Ma è importante quello che fai, non chi sei. Da un segnale anche di multietnicità, di apertura e quant'altro. Questo è, sono segnali importanti, perché parliamo di una città come Londra, non... Di una, mia, non mia, di mamma come mia. Posso dire di una città qualunque, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora Rosanna, non ho capito che stavi dicendo della prima Bergamasca, che stavi dicendo? Così mi riferivo anche a Vendola, così. Io ho visto quell'immagine E allora? E per me è un po' è un po' triste, patetica, perché voglio dire, ma cos'è che non sopporti? Cos'è che non sopporti? Spiegami. Non mi piace, perché io non mi piace che un uomo, cioè, per un atto di estremo egoismo, mettere a monto queste produzioni di figli. I figli non si producono. È una cosa brutta. Cioè, un figlio è veramente un atto d'amore. Tra un vabbè, uomo, non ti piace quello che, quello che ha fatto Vendola con... Peraltro non dovrebbe piacere nemmeno a Parenzo, che è contro l'utero in affitto. Invece si batte, non si capisce perché cosa. No, ti dovrebbe dire, dovresti dirti quello che ha fatto Vendola, mettere a monto quel bambino, è una cosa orribile. Ma siccome dirti... Vendola non lo dici. No, siccome Vendola non lo dici. Io non ho mai votato Vendola, quindi non mi interessa. Rosanna, potrebbe chiamarsi Vendola. Potrebbe chiamarsi Salvini, potrebbe chiamarsi Vendola Salvini, potrebbe chiamarsi come ti pare. Sono contrario a tenere in affitto. Beh. Dopodiché, questa campagna, perché nei confronti di Vendola c'è una vera e propria campagna. Ma quale di campagna? Odio. Ma nessuno se lo fila. E anche nei confronti. Beh, non mi pare. Ma nessuno e anche se lo fila. Nei confronti di questo bambino. Può venire in Italia tranquillamente, ormai non è più nessuno. Meriterebbe anche un certo rispetto, perché comunque parliamo di un bambino. Vabbè, di allora... un minore, quindi mi pare che sia una cosa molto ideologica. Vabbè, comuni, non si capisce di quello che parla. È ideologica, contro Vendola è scatenato si è scatenato un odio, una battaglia ideologica. Ma può venire in Italia tranquillamente, che non succede nulla, non succede niente. Ha parlato prima un consigliere regionale del Veneto, cioè non esiste un problema Vendola. Bravo, non esiste. Hai detto molto bene. Ha parlato non un minchione qualunque che chiama, ma un altro minchione che non è qualunque, che dice che va arrestato da altri minchioni. Che dice che va arrestato. E che dice, e bravo, esattamente. La sua idea è che va arrestato. Cioè, non è che ha detto una cosa così strana, cioè, ha detto che secondo lui se, ha violato anche la legge italiana e va arrestato. Per me è una follia, però, che c'entra? Ma perché secondo me dovrebbe essere autorizzata in Italia l'utero in affitto, è diverso. Rosanna, di fronte a due gay che si baciano, qual è la tua reazione? No, è di schifo, sinceramente è di schifo. Con questo io rispetto la persona. Vabbè, poi ho capito, rispetti la persona, però se te fa schifo due che si baciano, amica mia, non rispetti nemmeno la persona, scusami Rosanna. No, voglio dire, ma a me due uomini, anche due donne che si baciano, non mi piacciono, è una cosa che mi fa senso, non mi piace. Vabbè, perché ti fa senso vedere due uomini che si baciano? Vabbè, ma questa è una questione personale. Cioè, è una questione mia personale. Non ho capito, se una donna tenta di baciarti? Non mi piace, no, perché per me c'è un uomo, una donna. Ma scusa, non hai mai avuto un'attrazione per un'altra donna tu? No, non l'ho mai avuta, non mi viene neanche l'idea. Una bella lesbicata, no? Ma perché devi dirgli per forza così? Ma no, però, una bella lesbicata ogni tanto. Ma perché le devi dire così a sta signora? Consentito, ma consentito, dire, per fortuna è consentito, non è che si può proibire, no, si può proibire il lesbismo. Mi viene la voglia di amare un cane e di stare con un... Non è possibile. Beh, no, adesso stai paragonando l'amore per un cane, l'amore per un cane all'amore tra due donne o due uomini. Ci sono delle regole, ci sono dei pudori, poi voglio dire tutto questo sbaciamento, sbaciucchiamento, lingua in bocca, cioè fa veramente schifo, anche i sentimenti devono essere così No, scusami, piene però di pudore, ma d'accordo, sarà pure piena di pudore, ma due gay che si baciano per strada per me sono come un uomo e una donna che si baciano, è esattamente la stessa per cosa. Me no, per me no, per te no, e vabbè, amica mia, che ti devo dire? Ma possibile che tu in vita tua non hai mai assistito ad un atto lesbico? Vabbè, ma non è che tutti hanno assistito. Ma che significa un atto lesbico? Ma che ne ma so? Non fa passare per lesbico. Normale, però non hai, adesso sei quasi scandalizzato che la povera nonnina non no, ha mai nonnina? Assistito. Mica è nonnina, c'era non lo so quanti anni meno di 60 anni, lo sanno, giusto? Che questa simpatica signora dice, come mai lei non ha mai assistito a un bacio? Come fosse una cosa... Ma sì, ma dai, su! Come fosse lei... Ma cosa vuol dire? Ma no, sì, ma un bacio lesbico, uno la... Se tu non hai visto... Ma a prescindere. A prescindere, dire, a prescindere. Se ne facciamo un fatto culturale, di costume, che tutto va bene. Non va bene. Non va dobbiamo bene. Dobbiamo avere ancora la forza di scandalizzarci e di dire che non va bene, perché non va bene. Non va bene, non va bene. Non il bacio tra due lesbiche non va bene. Va bene, d'accordo. Non no, va bene. Non è bello a due uomini non che... È... Non è bello due uomini che si baciano, amica mia, però vivi no, nel... cerca di vivere nel mondo reale, però che tu non vivi nel mondo reale, non vivi nel mondo reale, scusami se te lo dico, non vivi nel mondo reale. A proposito di questo, grazie Rosanna, ciao. Caro Parenzo, oggi è venerdì, a proposito di lesbiche, gay, eccetera, eccetera. Sì. Abbiamo creato un po' di putiferio in Puglia, dove un soprano, mezzo soprano, cantante lirica, eccetera, docente al conservatorio, in realtà ex docente al conservatorio, ci ha detto delle cose al telefono contro i gay. Ti ricordi? Tra quelli ammazzati a Orlando sicuramente c'è qualche pedofilo, dunque i bambini tirano un sospiro di sollievo, eccetera, eccetera. Ora, questa signora pugliese... A questa signora pugliese pare abbiano negato un lavoro che doveva fare per le affermazioni fatte in questa trasmissione. Beh, no, però io questo qua lo trovo sbagliato, devo dirti la verità. Cioè, ognuno dice il cazzo che vuole, cioè dice, non è che per le cose che dici, anche se cose pesanti, per carità, eccetera, tu devi essere privata del tuo lavoro. Questo francamente mi sembra esagerato, È discrezione dell'azienda decidere se un personaggio d'accordo. Così è consono con l'azienda nella quale allora, questa si chiama Ciliento, è intervenuta la Zanzara e detto delle cose anche abbastanza pesanti. Pare che le sia stato tolto un lavoro come mezzo soprano, doveva esibirsi non so dove, non la vogliono fare esibire per le cose che hanno sentito. Amici miei, dai, su. Perché lei collega i gay uccisi al fatto che i bambini perché siano salvati? Perché in mezzo a quei gay sicuramente qualche pedofilo ci sarà pure. Non penso in mezzo a 50 siano tutti caschi e puri. Ma lei dice? Mi sembra ovvio questo. Moltissimi gay non sono neanche malati. Sono solamente di perversi e viziosi. Perché io li conosco. Disgraziatamente ho anche ho lavorato con delle persone, soprattutto nei registi gay. Che sono malati i gay? Alcuni gay sono malati, altri sono perversi. Ma si possono curare? Questo è lo che bisogna chiedere a un medico, io non sono un medico. Se lei avesse un figlio gay, no? Che farebbe? Farei di tutto per curarlo, se fosse possibile, se no andrebbe avanti per la sua strada. Però direi a mio figlio, lascia stare i bambini. Parenzo, intervieni tu. Le presento il dottor Parenzo. Buonasera, David signora. Parenzo, lei ha mai pensato? Buonasera, signora. Lei ha mai pensato di farsi curare per queste cose che ha detto? Senta, sì. Vada a prego. Quel paese. Prego, signora. Cacciata da un lavoro per le cose che ha detto. Giovanni da Mantova. Vai, Giovanni. Salve. Allora, dimmi. Io vorrei incominciare con una premessa, che io sono l'erede naturale di Donato da Varese. L'erede naturale di Donato da Varese. Che vuol dire l'erede naturale? Perché adesso una volta uno chiamava già siamo agli eredi, non ho capito. Come? Già siamo agli eredi. E certo, siamo agli eredi perché io quando ascolto Donato da Varese ho un appagamento perché mi eccito. Ti eccito, vabbè, ti quando sento quel cancro di Parenzo che fai? Dice delle cazzate perché vabbè, io che fai? Una volta la gente diceva io sono l'erede di Umberto Eco, adesso di Tavares, ti hai capito come è cambiato il mondo? Di cosa sei erede, perché tu sei un disadattato, ecco. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Argomenta, non è che puoi chiamare dicendo quello è un disadattato. Certo, stavo ascoltando il discorso che si faceva sui coniglietti. Sì. Allora, esiste una legge dove dice che io non posso investire con i coniglietti oppure non posso fare la caccia con i coniglietti? Allora vorrei sapere, signor Parenzo, cosa mangia? Perché quando io sento queste cose, io glielo l'ho detto prego, più volte, lei non è obbligato a essere un mio biografo, quindi lo ripeto, io non mangio il coniglio perché il coniglio non è kasher, cioè non è carne che è, vabbè, non è previsto dalla menù ebraico, vabbè. Bravissimo, quindi non lo mangio, ma non lo mangio per questa ragione. Non lo mangerei neanche quello ucciso in quel modo barbaro per divertimento, come hanno raccontato quei 3, 4, 5 cialtroni che hanno chiamato prima. Vabbè, cialtroni è gente che pratica cosa qui, la caccia al coniglio in provincia di Catania. Ci hanno spiegato esattamente cosa. Ma non credo che sia un reato. Non sì, credo. Ma il maltrattamento agli animali è un reato. Ma non è maltrattamento, è semplicemente ovviamente cos'è? Dietro questo c'è una copertura che è quella: io investo un coniglio, che devo fare? Tu capisci di cosa stiamo parlando? No? Questi fanno la caccia al coniglio, dopodiché la cosa passa. Questi sono dei miserabili che maltrattano gli animali. Io sono un carnivoro, mangio la carne almeno tre... Ma cos'è sto eco? Mi sembra di stare in Valtellina. Mangio la carne almeno 3-4 volte a settimana, ma quella è barbarie. Barbarie vabbè. Pura. Fermi, va bene, fermi, lui dice va bene. No, non ho detto barbarie. Per me non fermi è... che cosa, fermi? Ma io non credo che sia barbarie. Cosa, non credo sia barbarie. Non credo sia barbarie. Ci devi lanciare il traffico. Cosa devi fare? Fermo, stai tranquillo. Stai calmo che oggi perdi veramente la testa. Fermo. Il mondo è diviso in due parti, c'è chi piscia nella doccia e c'è chi dice che non piscia nella doccia, ma piscia lo stesso nella doccia. Grandi inchieste della Zanzara. Chiedo a mia moglie, ma anche tu mentre fai la doccia fai la pipì se ti scappa? Sì, sì. Visto Parenzo? È normale, è normale. Cruciani, bisognerebbe fare una nuova inchiesta. Quanti di noi pisciano nelle piscine pubbliche? Io non ci credo se la gente dice di no, è troppo invitante. Massimo, provincia di Verbania. È un mondo di maiale e zuzzoni. Vai. Mi viene il disgusto solo a pensare della gente che piscia dentro le piscine. Appunto. Quello è orrendo. Meno male. Anche per me. Io non sono mai riuscito. In realtà non mi è mai venuto in mente. Poi ci nuoti dentro. Ma non mi è mai venuto in mente. A me ti dico. Andrebbe sanzionato come un reato. Anche Massimo da Verbania piscia nella doccia. Tanto per essere preciso. Ma certo. Ma è giusto fare questo... la pipì nella piscina comunale, roba da Donato da Varese proprio. No, ma che c'entra Donato da Varese adesso? Sì, dai. Sicuramente lui lo fa. Sicuramente, guarda. Lui è Mauro allora, da Mantova, parlare sicuro. Di tutto gente un'altra così. Cosa. Dimmi, che ultimamente mi sta facendo venire mal di testa, e non solo a me, ma a tutto il mondo dei camionari. Cioè, sei camionista? Avrei voluto parlare di foci, di puttane, ma non è il caso. Allora, certo. Voglio parlarvi di questo. Il primo luglio c'è lo stop alle sigarette in macchina. Sì. Meno male, bene. Follia allo stato puro. Ottimo, giusto. E te lo dice un fumatore, ottimo. Il democratico non ha niente. Ma che c'entra la democrazia con la salute? Non c'entra niente. Ma non c'entra niente. Con la salute verso gli altri. È come dire, è come i limiti di velocità, sai. Ma hai 4 ore per parlare, fammi dire una cosa in 2 minuti. È come i limiti di velocità. Qua si parla di distrazione, ok? Quindi appunto, la salute non c'entra niente. Appunto, perché la salute degli altri. La salute delle persone. La salute degli altri, non la tua. Minimi. Vabbè, Massimo, perché sei contrario a questa roba? Perché? Allora, sono contrario perché se tu mi metti questa cosa come distrazione, allora mi devi fermare anche tutte le signorine con le minigonne, mi devi fermare tutta la gente sulla strada vestita in perizoma, con culo di cuori o che altro, perché quelle sono tutte distrazioni. Quello cioè ci sono tante momento. Distrazioni. Beh, questa qua diciamo è più controllabile da un certo punto di vista. Cioè sei in ma macchina io fumo no, ma io sono contrario anni. A questa. Ma io sono contrario a questa roba. Ma il tuo amico di a fianco che io fumo da 25 anni come male. Tanta altra gente fuma. Male, molto male. Perché se poi fai un incidente con la sigarettina in bocca e ti parla un fumatore, ti do l'aggravante anche. Ma è molto più pericoloso cambiare radio con la mano. Quella cosa lì dura pochi secondi, la sigaretta allora in mano dura più di qualche minuto in mano. Ma che distrazione è la sigaretta? Può bruciarti, può caderti il tizzone nella macchina, possono accadere mille, a parte che antigienico, ma chi se ne frega, perché uno se vuole fumarsi delle sigarette in mano. Vabbè, ma che succederà concretamente il primo luglio, Massimo? Tu ti farai multare? Il primo luglio succederà questo blocco. chi? Fumo, blocco di chi? Blocco del cervello. Fumo, baracchino, alcol, anche se chiuso sui camion non può stare. Cioè io non posso avere una lattina di birra. Ma non ho capito chi è che bloccherà che cosa, non ho capito. Ah, stiamo organizzando un blocco tramite... tramite i sindacati. No, per carità di Dio, non fate le cose. No, per le sigarette, ma siete pazzi, siete. Non è che un ebete alla mattina si sveglia, fa una legge, amico, ma no, però quali blocchi, Massimo, ma siamo impazziti, siamo. Massimo, basta con i blocchi stradali per queste robe qui, dai. Nella strada, andare a Roma a rompergli il culo? Non, ma ho capito, ma che c'entra? Scusami, Massimo, però in questo caso non è che vi tolgono i soldi, non è che vi tolgono i soldi, non è che c'è una rivendicazione. Ma non devono rompere i coglioni, ma stiamo fumando una sigaretta, noi facciamo 15 ore sul camion e rischi di provocare incidenti. Chi se ne frega se tu fumi? Ma cioè, guarda, questo pure ha ragione, un camionista che guida per 15 ore. Si ferma, fuma a bordo strada, si ferma, poi ritorna e va. Io fumo, ma io perché devo rischiare la vita perché uno stronzo fuma la sigaretta nel camion o in macchina? Okay, ma io perché devo rischiare la vita per colpa di uno stronzo che fuma in macchina e magari si distrae? Ma perché devo rischiare la vita io? Ma dai, su, non esagerare, dai, su, non è. Ma che stai scherzando tu? Ma state scherzando voi? Ma state scherzando voi? Ma state scherzando voi? Ah, boh, chiediglielo a tua sorella. Ma comunque state scherzando voi? Ma state scherzando voi? Ti apre in due, altro che piccola sorella. Sorella aggraziata e gentile. Vabbè, Massimo, ciao, ciao. Ciao, ciao. Marco, Genova, vai, Marco. Buonasera. Allora, gente brutale. Molto breve. Ma quello è incazzato però, perché non può fumare. Ma lascialo blocco, essere incazzato. No, il blocco stradale è una cazzata. Ma che siete matti. Il blocco è una stronzata. Ma quello è incazzato pazzi perché fuma da 25 anni. E fuma e si prende la multa se fuma. Deve perché guidare non so quante ore al giorno. Fino adesso non gli è mai successo un cazzo. Non si capisce per quale motivo uno deve andare a rompere i coglioni. È una cosa di libertà. Perché non è una libertà un cavolo se incide sugli altri. Ma incide sugli altri. Ma non è come il telefonino. Metti il viva voce. Non è così. Non è come il telefonino. Metti il viva voce. Metti le due mani sul volante. Buonasera, mi sentite? Buonasera. Vuoi a tutti. Fumare? Ti fermi, dimmi, dimmi, fumi, vai, e riparti. Niente, allora io sono laureato da 2 anni in medicina, una specialistica in urologia, e negli ultimi 2 anni con 8 miei colleghi abbiamo fatto uno studio appunto che riguardava come fortificare i muscoli pelvici. Una delle modalità per poterli fortificare, visto che ultimamente l'argomento è molto discusso, soprattutto per le cazzate che si trovano su internet, è proprio quello di mettersi seduti nella doccia e urinare da seduti. In questo modo si contribuisce. Cioè, non ho capito, tu che ti stai specializzando in urologia, quali vantaggi provoca il fatto di pisciare sotto la doccia? Cioè mettersi accovacciati e pisciare sotto la doccia, uomini e donne? No, questo vale solo per gli uomini. Cioè, vale come, che uomini devo fare? Ma scusa, sotto la doccia piscio in piedi io? No, io istruzioni per l'uso. Allenare il muscolo pelvico, lei si deve accovacciare, urinare, in questo modo lei automaticamente va ad allenare dei muscoli pelvici che in altri modi non vengono allenati. Ho questo capito. Dà dei vantaggi alla vita sessuale. Un'altra cosa volevo dire era che volevo capire come mai Parento, ok? Prende sempre le difese di immigrati e rom in ogni cazzo di caso. Vabbè, Marco, adesso questa è un'altra cosa. Ciao, ciao, ciao. Allora, gruppi di animalisti incazzati per quello che ha fatto il Papa, cioè ricevere gli uomini, le donne, i ragazzi che lavorano nei circhi. Ottimo. Lorenzo Croce, buonasera, buonasera. Hola, buonasera. Come andiamo? Presidente di un'associazione che non si capisce quanti iscritti abbia, che si chiama 13.000 AIDA. 13.000 certificati. Quanto? 13.000 certificati. Ma quale, con 90 gruppi. Sì, quale 13.000? Ma quando mai? Dai, AIDA, AIDA, giusto, AIDA. Allora, Croce, che vuoi dire sul Papa oggi? Che effetto ti ha fatto il Papa che ieri ha accolto... Uno che si chiama Croce che crede che il Papa veramente tutto, ormai siamo finiti, dai. Vabbè, ma che c'entra questo? Ma no, in generale, dico, uno che si chiama Croce che si mette a criticare il Papa, dai. Uno che si chiama Croce che mette in croce il Papa, dai ragazzi, ma soltanto qui da noi può succedere. Dai, vai. Papa, scusate, il Papa è quel signore che c'ha il grembiule bianco che da piccolo voleva fare il macellaio? Sì, è il Papa, sì, è il Papa. Lui? Sì, quello lì? È lui, sì, è lui. Cosa volete che vi dica? Dici quello che pensi sul Papa. Quando uno da piccolo sogna di fare il macellaio, mi sembra normale che possa ricevere anche quelli dei circhi e dire che sono delle persone maltrattate. Loro, gli animali no, loro sì. Ah, tu dici, siccome voleva fare il macellaio, Francesco, ma questo vabbè, il fatto che si chiami Francesco, vabbè, così. È un incidente di percorso. Ma sì, si arriva per fare un po' di marketing. Per cui non ho capito come lo consideri questo Papa che giustamente secondo me accoglie gli uomini dei circhi. Gli uomini dei circhi sono lavoratori come gli altri. Sono lavoratori come gli altri gli uomini dei circhi, ti segnalo. No, attenzione. Per quanto riguarda gli artisti del circo, che non usano animali, massimo rispetto. No, questi usano animali, questi usano animali. Quelli che usano animali sono lavoratori come altri, va bene, ripeto, anche i macellai sono lavoratori come altri, ma per quanto mi riguarda ha sbagliato, l'abbiamo scritto sul nostro sito. No, ma non ho capito, hanno sbagliato, non ho capito, come li consideri per esempio i macellai tu? Beh, io i macellai li considero come macellai. Cioè assassini? No, io non sono così estremista, lo sai. No, ma come li consideri i macellai? Come li consideri? Li considero come i cacciatori e come altre persone che fanno un mestiere sbagliato. E dunque dovrebbero cambiare mestiere? Dovrebbero cambiare mestiere nel momento in cui la società non mangia più carne, ovviamente. Ovviamente. È una questione di prospettiva. Di prospettiva, dai. Certo. E il Papa invece che ha fatto? Ti do una notizia, sai che forse portiamo a casa noi Zanzarina? Cioè forse sì, te la dai, ma quale capito. Zanzarina che ti dà, non ti dà sì, niente. Abbiamo parlato con quello di Lecco, sì, ma non sto scherzando, a settembre. Senti, giuro, non sto scherzando. Amico mio, è impossibile questa cosa qua. No, cerchiamolo e fatelo dire. Se non guarda, ci siamo parlati due mesi fa. No. Credimi. Ma che è impossibile, dai. Perché Zanzarina... Non c'è nulla di impossibile. No, nulla è impossibile. Il mio rapporto con il proprietario di Zanzarina è solido, per cui ha detto io non faccio un passo senza prima consultare. Me lo chiederai, io ti dirò di no. E io ti dirò di no. E tu mi direi di no e allora verranno ancora trovati. Io non ho capito il Papa che questa carezza che ha fatto alla tigre, accogliere gli uomini del circo, che gesto è stato secondo te? È stato un gesto sbagliato perché ha dato una patente di simpatia dei torturatori di animali. Ma che torturatori di animali? Ma che dice? Ma grandissimi artisti sono, altro che gli artisti. Quelli dei circhi sono dei torturatori di animali. Lei si ricorda quando li ha invitati ad Iceberg qualche anno fa? Quelli del circo non si ricorda più. Ma assolutamente sì, anzi. No, chiedo, si ricorda o non si ricorda? E beh, che hanno fatto? No, lo chiedo a Parenzo, visto che parla tanto di grandi artisti. Io sono a favore del circo, l'ho detto mille volte. Quando stava nella Lombardia ad Iceberg. E beh, che è successo? E allora? Certo. No, chieda a lui. Che cosa gli hai detto? Non mi ricordo cosa gli ho detto. È facile cambiare ogni 3x2 il La pensavi diversamente sui circensi? Non credo proprio, forse si sbaglia con qualcun altro, perché io ho sempre difeso il circo. Se mi tira fuori quell'audio le do 50 euro. Forse lei non si ricorda, forse le manca un po' di memoria. Attaccava quelli del circo. Non credo proprio. Non manca perché io lavoravo con lei, quindi non mi manca memoria. Forse si sbaglia veramente, perché ho sempre portato mia figlia al circo e l'ho sempre difeso. Quindi non mi manca memoria. Dice che lavorava insieme a te alla Lombardia con lui. Con questo qui? Mi chiamavo Tito Lupi come pseudonimo, certo che ho lavorato 10 anni su fatto. Tito Lupi. Mi ricordo bene come lui ricorda bene me, Milo Infante, Poletti. Io con Milo Infante non ho mai lavorato, perché quando sono arrivato l'ho già dato via. Ragazzi, sono cazzi Poletti, vostri. Certo. Ma come sta la tua pantegana? Non bene. Cioè, considera che Lorenzo Croce ha una pantegana di 16 anni, ha una pantegana di 16 anni. Un check-up del veterinario. Ah, comunque abbiamo messo in piedi un gruppo di preghiera. Per chi? Per te. Cioè? È un gruppo di preghiera perché siccome ci hanno detto gli animali che la tua anima nera deve finire all'inferno degli animali, con la Madonna di Medjugorje e compagnia ci siamo messi a pregare per far sì che tu possa essere riabilitato. Io non ho capito, ma la pantegana dove la tieni tu? Davide, stai facendo troppo rumore, scusami, siamo alla radio. Sto togliendo il caricatore. Ma non me ne frega un cazzo, non me ne frega nulla, c'è rumore. Si sente rumore, ma che cazzo me ne frega a me? Si è surriscaldato il telefono in modo Vabbè, terribile. La pantegana non ho capito, dove la tieni la pantegana? Il veterinario questi giorni. No, ma dove la tieni? Dentro casa tua la tieni? Nel letto della moglie la metterà. A casa Nel tua la pantegana, ma quanto è grossa sta pantegana? Beh, 1,5 chili di topo. Tu hai un topo in casa? Sterilizzato, vaccinato, certo. Un chilo e mezzo? Certo, vaccinato, normale. Adesso per comunque settembre faremo il topa day anche. Mamma mia ragazzi, la giornata nazionale del topo. Che potresti andare topa a Cruciani al topa day. Day, sì, topa day. Vabbè, andare. Ciao Croce, ciao. La parola lecca culo esiste perché esiste Parenzo. Franco da Roma, vai Franco, vai. Signor Cruciani? Vai, dimmi Franco, dimmi. Niente, io seguo ogni tanto la Zanzara. Sì. Però vorrei sapere per quale arcane e spiegabile motivo sì. fanno ancora parlare quello che si spaccia da giornalista. Chi è? Che risponde al nome di Parenzo. Sì, questo è vero. Come mai? Volevo chiedertelo anch'io questo. Ma questo ha ragione, però, perché volevo chiedertelo anch'io effettivamente questo. Come mai? Cosa come mai? No, come ma come mai fanno parlare ancora? Guarda, sì, cosa, ma perché? È vero, è strano effettivamente. Come mai? Tutto al contrario di quello che bisognerebbe fare. Cioè, cosa bisognerebbe fare? Tutto al contrario. Infatti. Prende le cose... Le dati a chi non le deve prendere. Sì, vabbè, strano, Franco, arrivederci. Adriano, provincia di Treviso. Dai, Adriano, non c'è più Telemaco da Roma, dai, Telemaco. Buonasera. Telemaco. Vai. Niente, volevo fare una... Sì, amico mio, siamo alla radio però, Sì, allora... E uno deve parlare dire, innanzitutto. Praticamente. Noi consideriamo uno Stato laico, anche democratico. Infatti adesso in Italia è così. Sì. Quindi per lo Stato islamico diciamo non può essere democratico sì. perché non valgono alcuni principi che noi consideriamo democrazia. Allora io mi chiedo come può considerarsi democratico uno Stato ebraico, uno Stato che per definizione come lo Stato islamico si definisce islamico anche. Vabbè, lo Stato arrivederci Telemaco, Paolo, mi hai rotto i coglioni, Paolo, mi hai rotto i coglioni già, Paolo da Milano, decido io quando uno mi rompe i coglioni, vai Paolo. Buonasera, io dimmi, mi sono dimmi. Trovato in volevo parlare della caccia con l'abbagliamento. Io ero in Australia in un viaggio e ho sì. visto un pick up tipo quelli che usano quelli dell'ISIS con sopra una foto elettrica di almeno un metro di diametro e mi sono sì. fatto spiegare a che cosa serviva. Quella è l'Australia, sì. amico mio, però lo so. In Australia è pericolosissimo perché ti attraversano certi animali che ti possono ferire, ovviamente. E allora? No, niente, loro la tecnica di caccia abituale è di abbagliare gli animali cioè. Nel bush perché così gli occhietti, loro si inchiodano perché sono abbagliati e vedono le luci rosse degli occhi che riflettono e sparano in mezzo agli occhi per non rovinare la pelliccia dei canguri. È tutto regolarissimo in quanto i canguri non sono assolutamente a rischio di estinzione. Anzi, sono un flagello per le culture, per cui devono anche regolamentare. Va bene, ho capito. In Australia fanno la caccia come nella provincia di Catania. Beh, sì, è sì. preventivo perché ci sono queste strade enormi. Fanno la caccia o no, Paolo? Non fanno nessuna caccia. È caccia ed è uno sport a cui loro si divertono moltissimo. Sì. E io trovo che questo sport in Australia abbia un suo senso. In Italia decisamente no. Che vuol dire? Se c'è una gara ad ammazzare i conigli è uguale in Australia, è uguale in provincia di Catania, scusami. Però non si può fare, piccola differenza. Sì, vabbè, ma questo stava parlando di un'altra cosa adesso. Non capisco la differenza tra l'Australia e l'Italia, non ho capito. E la differenza tra l'Australia e l'Italia, che è una cosa assolutamente comune. Da tempo in memore. Ma quello probabilmente anche in provincia di Catania da tempo in memore si fa la caccia al coniglio, oppure non so dove, in altri posti. Cioè, vabbè, ciao. Guglielmo Firenze, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Senti, io ti volevo dire che hanno ragione le altre persone che dicono di Parenzo, perché sembra Librandi nel programma dalla nostra parte, no? Vabbè, ma non è che gli hai detto che è come Totò Riina, scusa. Sì, appunto. Vabbè, Librandi sta... A Firenze si dice sta sulle balle a tutti, è uguale. Ma sarà sulle balle a qualcuno, ad altri no. Non fa parlare, sai, no? Vengo io, che sono abituato anche a fare il programma, lo faccio alla radio da 7 anni, anch'io faccio un programma a Firenze, sì. Vengo io al posto di Parenzo. Dai, se mi prendi facciamo la prima. Proviamo, facciamo questi ultimi minuti di trasmissione con Guglielmo. Resta qui, dai. Io sto zitto, vediamo. No, Guglielmo. No, che stai zitto? No, vediamo no. Guglielmo. Fabio, Udine, vai, Fabio. Vai. Sì, buonasera. Ascolta, io devo essere un po' sincero, sono stato, dico io, sottolineare, un po' omofobico. Detto questo, dico una cosa, siccome ho avuto due genitori veramente di merda. In che senso hai avuto due genitori di merda? Non ho capito. Due genitori. Ti dico solo che mio padre, cioè mia madre, quando ha avuto un incidente grave, stava morendo, è stata 3 mesi in coma, e mio padre era buttato prostitute. Lasciandoci a noi piccoli da soli. Tuo padre, mentre tua madre era ricoverata in ospedale, eccetera, andava a troie, mia madre stava morendo, che 3 mesi in coma. Che bella famiglia. Beh, sì, mio padre è un pezzo di merda, mia madre che altrettanto. Bella famiglia. Vabbè, cioè, tua madre altrettanto perché, scusa, poveraccio. No, ma lo dirà che è normale Cruciani adesso, vedrai. Guarda, dico solo che hanno augurato ai figli un tumore. Da piccolino mi ricordo solo litigi. in piatti che volavano. Poveri. Quindi dico solo questo, ma non era meglio a questo punto essere cresciuto da due padri o da due madri? Beh, non lo so, magari erano dei pezzi di sarebbero rivelati dei pezzi di merda pure quelli, mica è detto, eh. Non è che due omosessuali o due froci sono sicuramente meglio di due etero. Scusami, Da sei mesi che conosco ed esco, ottimi rapporti, ottima amicizia con due lesbiche che abitano adesso vicino a casa mia, e hanno una delle due ha una figlia, e questa bambina cresce con tutte e due mamme, diciamo, no? Perché la seconda. Io, ma però vorrei tornare a una cosa: perché io, tuo padre, vabbè, lo consideri, lo hai, è ancora vivo? Sì, sì, tutte e due sono vivi. Tutte e due sono vivi. Non li frequenti, evidentemente. No, da tempo non li sento. Già, e li consideri dei pezzi di merda, in sostanza. A voi abbondantemente, non posso dire qui, magari qualcuno mi conosce, ma non vorrei. Abbondantemente, sì, no, ma stai dicendo, ma tuo padre, ho capito, tua madre, non ho capito che ha fatto. E insomma sono delle cose un po' private che non vabbè, posso ma dimmene una qui, però... dato, hai già detto che sono dei pezzi di merda, quel tuo padre andava a mignotte, insomma, è un bel quadro. Cioè, non mi sembra che ti sei risparmiato da questo punto di vista, diciamo che io e mia sorella abbiamo divorziato, e nel suo divorzio, per esempio, mia madre, dico già da adulti, non dico da piccolini, che considera mia sorella una puttana, una prostituta, solo perché è divorziato e si è messo con un altro uomo. Una famiglia con ragionamenti un po' all'antica, e ci hanno abbandonato praticamente da piccolini. Abbandonato in sostanza. Ma altre colpe di tua madre quali sarebbero, oltre a quello di considerare tua sorella una prostituta semplicemente perché si è separata? Diciamo, insomma, come posso dirlo qui per radio, che c'è tanta gente che ci ascolta. Diciamo che non te lo posso dire qua, mi dispiace, no, non me lo puoi dire, vabbè. Comunque tu dici meglio avere due padri o due madri, ma sì, questo non è detto che... non è detto, il carattere delle persone non è che cambia se sei omosessuale o se sei eterosessuale, Fabio. Appunto. ciao. Allora, grande ritorno alla Zanzara, il professor Maurizio Bossi. Buonasera. Ottimo. Buonasera. Buonasera a voi tutti. Ciao, bentrovati. Allora, ottimo, professore, qui ci è venuto un dubbio che è stato sollevato ieri da una nostra ospite, che ha detto: le donne possono fare a meno di fare sesso. Cioè ha detto in sostanza che le donne possono stare più dell'uomo per lunghissimi periodi senza fare sesso. Allora, siccome noi dobbiamo sciogliere assolutamente... Io penso sia così, ho detto. No, poi bisogna, vediamo sciogliere scienza. questo mistero, questo arcano. È vero o non è vero? Ce lo dica lei. La risposta è vero. Parento, ma hai ragione anche tu. Perché il problema è la sex, la sessualità. Quante persone riguarda? Il 2-3%. Tanti, dunque... tantissime persone, tanto maschi, tanto femmine. E allora come la mettiamo con la fisiologia? Come la mettiamo con quell'organo che ha bisogno di essere sempre attivato? Parenzo, qual è quell'organo? Lo sai, vero? È il pisellino, diciamo, e la vagina. Bravo, per quanto riguarda le signore. Certo. E allora il problema veramente è questo. Ecco. Allora, la donna ha un piccolo attributo che si chiama clitoride, ma non è assolutamente paragonabile a quello che Madre Natura ha regalato, donato, oppure ci ha fregato dandoci questo attributo. Ebbene, questo attributo va tenuto in esercizio. E adesso subito un test. Non ho capito. A me piacciono molto i test. I test sono ottimi, però fermiamoci un attimo, professor Bossi, fermiamoci un attimo a quello che hai detto prima. Cioè, non ho capito se dai ragione a me o Parenzo, tutti e due in realtà, come al solito, cioè, se fai il democristiano. Cioè, un po' ragione io, un po' ragione Parenzo. Cioè, può fare a meno del sesso una donna più dell'uomo, sì o no? La risposta è sì. Può fare a meno. Però tu dici che poi il clitoride va tenuto allenato. Il clitoride va tenuto allenato, ma soprattutto l'attributo genitale maschile ha un'obbligatorietà dell'allenamento, un'obbligatorietà che è nata da natura. In altri termini, chi ci vuol bene, chi ci ha creato, chi per esso, ha fatto una scelta che tutte le notti ci debba essere un mantenimento. Qual è questo mantenimento? Lo sapete voi tutti. Chi in questo momento sta guidando, chi sta giocando, chi sta ascoltando la Zanzara, sa che quando aveva 18 anni, su 10 giorni, 9 si alzava con l'erezione mattutina. Perché? Perché quell'erezione mattutina? Che cosa serve? Perché a mai serve? La natura ci ha dato a questo? Fantastico. Serve mantenere l'allenamento. Un organo come il pene, sapete quante arterie ha? Quanto sangue arriva al pene? Certo. Quanto? Tanto nelle arterie. Sapete il cuore quanto ha di arterie? Quanto? Ne ha due di arterie, le due coronarie. Ma com'è possibile che un organo che lavora 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, abbia solo due arterie grandi e invece appena ne ha sei piccole? Come mai? Perché a questo punto la scelta è stata proprio quella, te ne do sei piccole che quando devono servire le pompo al massimo, però ogni tanto ho bisogno che queste sei piccole arterie ti diano un flusso di vita, un flusso di sangue, questo avviene tutte le notti. E allora a questo punto che sei prete, che sei cattolico, che sei ateo, non importa. Ho capito, tutte però a un certo punto, professor, tutte le notti... Tutte le notti? Tutte le notti? Tutte le notti ti arriva quella magia che dice quest'organo che in questo momento non serve a niente, io te lo devo mantenere in esercizio, ed ecco l'erezione notturna, ed ecco quella magia che non serve a niente, che è un dispendio di energie, che è tutto quello che voi volete, eppure funziona. E allora se funziona perché c'è qualcosa che dentro spinge, e questo organo incredibile che noi vediamo che è il pene, che è la metà del pene. Non sono pazzo, il pene è la metà del cioè, pene. Che vuol dire ma dov'è pene? L'altra metà allora? Esatto, dov'è? Mercù, sono mesi che si intendono, infatti. Dov'è? Parenzo. Sì. Parenzo, tu che sei... A me piace, devo dirti la verità. Grazie, professore. Culturale, grazie, professore. Intelligente. Grazie molto. Ecco, noi abbiamo metà del pene che è dentro, nel nostro bacino, attaccato all'altra profondamente. E l'altro è fuori. Quando noi diciamo il pene è piccolo, ma quale pene? Quello dentro o quello fuori? Bene, quello che è dentro, quando la mattina ci svegliamo, che la vescica è un po' gonfia, perché c'è la pipì evidentemente, dove preme? Dove premerà mai? Preme sulla parte interna. Ecco che meravigliosamente questa pressione interna determina, come un palloncino. Andate al amico mio, professore, però se non succede poi, se non succede? Eccola qui. Se non succede siamo nel caso Mercù, nel caso di Andro Mercù, poverino. Se non succede se non questa succede, cosa, perché progressivamente, progressivamente c'è sempre meno. Progressivamente è sempre. Non c'è poco da fare. A me non mi succede più. Si atrofizza, si atrofizza. No, no, ti succede. Sapete come si fa a capirlo? Come? Bisogna prendere uno scotch di carta e metterlo attorno al pene. Alla sera vi addormentate, mettete un giro di scotch. E poi? Alla mattina, se lo scotch è staccato, vuol dire che è terminato in tumescenza. Guardate che voi pensate che io stia scherzando. No, per carità. È uno dei test che si chiama penimetria notturna. Pensate che bello. Voi tutti potete farlo gratuitamente. Un giro di scotch e alla mattina si è staccato. Dunque che bello. Un sogno erotico o qualcosa. Beh, se uno però non si ricorda, cioè, è un casino. No, ma intanto il fisico l'ha fatto, lui dice. Vabbè, no? Il corpo lo ha fatto. Vabbè, ma se uno poi deve, come dire, non ho capito bene. Allora, alla risposta lei ha detto, alla domanda di questa sera, che è questa, le donne possono fare a meno del sesso più degli uomini? Lei ha detto, la risposta è sì, assolutamente sì. Anche a lungo, cioè una donna può stare anche 2-3 anni senza fare sesso, spiegato, sì o no? Perché noi abbiamo queste vene, la donna è diversa, no? Ti ha spiegato. Arterie, scusi. La donna può stare 2-3 anni senza fare sesso? La donna può stare 2-3 anni senza fare sesso. E devo dire che anche meno lo fa, meno lo farebbe. Questo succede anche per l'uomo. Ma è proprio una questione di avviluppamento. Avviluppamento. E poi c'è la sublimazione, scusatemi ragazzi, cioè? Ma voi lo sapete bene. Cos'è? E cioè colui che non fa sesso, questa energia libidica, per dire una parola difficile, da qualche parte va. E la donna dove la fa andare, soprattutto? Dove la fa andare? L'amore per la famiglia, per i nipoti, per tutto quello che volete voi, per le opere sociali, molto più brave di noi sono. Noi al massimo ci mettiamo a dipingere, e sì, perché molti pittori sublimano questo. Ma ascoltate, sapete che uno dei più grandi fisici della storia, Isaac Newton, praticamente non ha mai copulato? Beh, con questo dobbiamo lasciare il professor Bossi. Isaac Newton praticamente non ha mai copulato. A lunedì. Vabbè, comunque mi avete rotto il cazzo, mo vi ho detto, andatevene a fanculo tutte e due. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando ritorno a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.